sa niente. Ok, l'altra niente, non ti hanno messo niente. Va bene, tienimi informato, c'è la Juve, ci sentiamo dopo, ciao. Gaffa, gaffa. Avevo gente, non posso partire, ragazzi. Così, niente, si fa le scappate, nessuno, non è chiamato, per carità, ho acceso la radio, ma non ho fatto nessuna chiamata. Juve che mette il turbo. Chi era? Avanti? Marco!